Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E allora eccoci qua ancora, buonasera a tutti, benvenuti in frequenza, questa è Blu Radio Sera all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto. Sono le 21:26 minuti, ancora una buona serata da parte di Maurizio Calzavare e Flavio Bilato. Prima assieme a Maurizio si parlava un po' del Festival di Sanremo, così è stato un fuori programma mentre si aspettava l'artista o gli artisti, perché parliamo anche al plurale in questa serata. Naturalmente la nebbia ha giocato la sua parte, però eccoli qui, hanno fatto bene a essere cauti perché li volevamo in piena forma, e quindi in questa serata dedichiamoci all'ascolto di quella che è la musica di un artista che arriva da Cesena. Il suo lavoro si intitola Sulle tracce della volpe, come si ricordava prima, ed abbiamo a presentarcelo proprio in carne ed ossa. Il protagonista della serata si chiama Frey. Buonasera Frey. Buonasera a tutti. E allora, intanto abbiamo già detto, il viaggio è stato fatto, non è stato buonissimo perché la nebbia... C'era un po' di nebbia, sì. Agli irticolli, piovigginando sale, ci insegnava un poeta di qualche tempo fa, e comunque tu sei qua a parlare sulle tracce della volpe. E innanzitutto, la volpe, ce l'hai con te questa sera? La volpe ce l'abbiamo in macchina. Ce l'avete in macchina? Sì. Sì. Portarla dentro mi sembrava un po' troppo complicato. Più che altro per voi. Vabbè. Comunque, allora, sulle tracce della volpe, si dice, si narra nella tua biografia, Frey. Innanzitutto salutiamo anche chi ti ha accompagnato. Dario Giovannini. Dario Giovannini, poi avremo modo di parlare anche con lui, perché è in qualche maniera un co-protagonista di quello che è stata una parte fondamentale. E allora partiamo da queste sulle tracce della volpe. E quindi si diceva, la biografia di Frey parte da una casa in montagna, su un bosco. Collina. Da qualche parte in collina, lontano da quello che è, diciamo, lo stress della vita moderna, ed è lì che tu ti sei messo sulle tracce della tua volpe. Esatto, sembra di essere lontani dallo stress, in realtà, della vita moderna, ma si è poi dentro lo stress della vita, sì, di montagna, perché c'è sempre stress, allora, da tutte le parti lo si voglia vedere. È sempre fatica a sfuggire allo stress, tipo quando piove, se abiti in un posto che c'è una strada sterrata, quando piove c'è il fango, certo. E magari ti si buca una gomma in fondo. Certo. Quindi è lo stress e devi cambiare la gomma praticamente. C'è casino anche giù. Benissimo. Non è stato semplice. Non è stato semplice, però alla fine ce l'hai fatta, sei uscito vincitore dalla casa, io immagino anche urlando e chiamando a te gli altri tuoi, diciamo, amici di viaggio, tra i quali anche Dario. Esatto, esatto. A fine marzo del 2011, sì, sono uscito di casa con le canzoni finite. Le canzoni finite nel senso di... già pronte praticamente. Canzoni. Sì, canzoni. Poi sono diventate delle canzoni vere e proprie quando poi sono entrato in studio, dove mi aspettavano Dario e Loris Ceroni, sì, rispettivamente arrangiatore e produttore artistico, dove nei mesi di aprile e maggio abbiamo appunto realizzato il disco. Quindi Dario te le ha sbussate, te le ha sistemate, le ha arrangiate in maniera corposa, molto corposa. Okay. E Loris ha fatto la produzione artistica, il mixaggio, e a giugno è uscito il disco. Il disco, diciamo, nel senso, dallo studio. E i quattro gatti li hai lasciati nella casa? I quattro gatti in uno studio non li ho portati. Bene. Allora, per far capire ai nostri ascoltatori di che musica stiamo parlando, direi di iniziare subito prendendo fuori la prima canzone, quella che è un po', sì, quella che dà la title track e che ci fa capire un po' di più di questa volpe. Esatto. Ok, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarla insieme. Buon ascolto. Blu Radio Sera. Sicuramente ho scelto qualcosa che va oltre, per inseguire a piedi le tracce della volpe. Ripeto mille volte, in me che non si dica, la stessa strategia per non fare fatica. E mentre voi mangiate, bevete cose strane, io vado a mani nude nei fori delle tane. Cammino nei sentieri, mi perdo per i boschi, dormendo negli anfratti di questi posti loschi. Mi dico e mi ripeto che vale la fatica, che quando sarà giorno raggiungerò la preda. Quando sarà la fine di questo pedinare, di questo andare dietro, tra mille congetture, e mentre dormo e sogno, con l'occhio sempre aperto, cammino a piedi nudi, tra pascoli e deserto. È certo che la volpe, per quanto poi si dica, non c'entra proprio niente col grillo e la formica. La vedo come un'ombra che piano si defila, lasciando con l'inganno le prede nella tana. Magari tra le foglie di questa selva oscura la guarderò negli occhi scoprendo la paura. Seguendo le sue impronte si incrocia il mio cammino, inciampo nella trappola, inganno il mio destino. Seguendola nel passo ricalco la mia vita e mi ritrovo spesso a inseguire un po' me stesso. Quando sarà la fine di questo divenire, di questo andare dietro a un sogno maniacale, e mentre dormo e ronfo con l'occhio sempre aperto, cammino a piedi nudi tra pascoli e deserto. Ti vedo da lontano nascosta nella tana, ti vedo che passeggi col sole nella schiena, ti sento che farfugli tra i rovi delle more, che lasci tra le foglie le tracce del tuo odore. A questo punto dico basta, lascio la mia pista, corro alla rinfusa, inghiotte la foresta. Quando sarà la fine di questo pedinare, di questo andare cieco, tra mille congetture, e mentre dormo e sogno, con l'occhio sempre aperto, cammino a piedi nudi, tra pascoli e deserto. Ora che ti ho rinchiusa, riposo nel mio covo, eppure ancora cerco, nel mio dormire incerto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, abbiamo affrontato il primo pezzo, Sulle tracce della volpe, il titolo dell'ultimo lavoro di Frey, e Sulle tracce della volpe era anche il titolo di questa canzone che ci siamo ascoltati all'inizio del programma, così per cominciare ad addentrarci in quello che è questo lavoro di Frey, Sulle tracce della volpe. Ancora buonasera a Frey, che è arrivato qui direttamente da Cesena, e adesso non se ne va a casa se prima non ci ha spiegato per bene come ha fatto questo lavoro. Allora, Frey, questa volpe, si dice che se sei curioso di vederla ci sono solo tre cose che puoi fare, è vero? Quindi o ti accontenti delle allucinazioni, che viene per ultima quella, ecco bene, o aspetti passivamente che arrivi da sola, o se hai voglia la vai anche a cercare. Esatto. E quindi sono queste le tre possibilità. Sì, che ovviamente stanno a sottintendere che la soluzione migliore, più interessante, è quella di andarla a cercare. Certo. È anche quella più divertente, è anche quella più probabile, che dà più probabilità di vederla. E quindi la volpe non è solamente un animale, ma è anche una metafora riservata alle cose che si cercano, che tu più vuoi, e quindi esatto, è inutile aspettare, sedersi ed attendere, ma andare a cercare. E poi anche la caccia alla volpe, se fatta come la fai tu nel video, perché poi parleremo anche del video. Diciamo che è una cosa assolutamente affascinante, perché non si parte come fanno i reali d'Inghilterra, con tanto di cavalli o con tanto di cani a cercare questa volpe, ma tu te ne vai da solo nel bosco in forma accelerata a cercare questa volpe, che poi senza fucile. Rigorosamente senza fucile, però armato di buona vista. Esatto. O perlomeno la presumitale, fatto sta che poi alla fine del video, per chi avrà voglia di vederselo, poi daremo tutte le indicazioni, tu tornerai comunque a casa felice e contento. Esatto. Anche se di volpi non sembra che visto. Non l'ho trovata. E invece c'è in macchina. Qualcosa nel video il personaggio si porta a casa. Certo. Che è un'idea in quel caso. Sì. L'arrangiamento è molto interessante, un arrangiamento di basso. Il basso dà proprio il quid, il là a tutto il pezzo, vero Frey? Parliamo anche con... Sì, io qui farei parlare appunto Dario. Dario, appunto l'arrangiatore dell'intero disco. Questo basso, Dario, allora. Bah, sì, il basso è preponderante, ha questo pulsare, questo ritmo incalzante che trascina il pezzo. E l'idea come è nata? L'idea dell'arrangiamento. Ma eravamo partiti dall'idea di creare un brano, diciamo, non prettamente suonato, che non desse l'idea di qualcosa di suonato, ma che desse l'idea magari di qualcosa di campionato, più vicino alla musica elettronica o cose di quel genere lì. E per cui anche la batteria, che sembra suonata, in realtà non è suonata, sono loop che sono stati costruiti, montati. Il basso è suonato, però comunque segue questo incedere molto cadenzato, costante, ripetitivo. E invece tutti gli altri strumenti che si sentono, a parte poche cose tipo chitarra e banjo, sono tutte cose campionate. Anche quella cosa di tromboni, quelle trombe che ho sentito all'inizio. Esatto, quella lì è un campione. È un loop che ritorna ogni volta che c'è bisogno. Ma è un loop molto accattivante, molto divertente, secondo me. Dà un certo senso al pezzo, a mio parere. Tra altre cose, voglio dire, non è una canzone, diciamo, normale pop. È un po' forse anche molto recitata, molto cabarettistica in certe situazioni. Sì, secondo me questa canzone ha un tratto saliente che magari rischia di non venire fuori. Cioè, comunque è una canzone scritta in metrica. È come se fosse una vera e propria... Vabbè, questo lo può spiegare meglio Frey. Comunque è il tipo di scrittura che cambia, non c'è strofa e ritornello. Sì. Diciamo che quello che dice Dario lo confermi, Frey. Sì, beh, è un testo totalmente strutturato, quindi lì si è partiti dal testo. Perché solitamente quando fai una canzone puoi partire dalla melodia, da un'idea melodica, oppure da un'idea melodica e un testo insieme, oppure a volte da un testo. Quando parti solo da un testo come questo, c'è una metrica rigorosa e precisa che ovviamente condiziona poi anche quello che è il balance o l'andamento della canzone stessa. Ho capito, chiaro. Certo. Allora, adesso, visto che Frey, visto che anche Dario Giovannini sono arrivati anche muniti di chitarra, direi di proseguire con l'ascolto di qualche vostra canzone anche in versione live acustico. Cosa ci proponi, Frey? Allora, ora vi facciamo in ordine il terzo brano, no, il quarto brano del disco, che è Gilda Stai Ferma. Sì. Gilda Stai Ferma. Bene, allora lo suoniamo e poi torniamo a commentarlo insieme per capire perché Gilda doveva star ferma. Ok. Benissimo. Gilda, sei nera come il carbone, i tuoi occhi di brace. Gilda, stai ferma, non vuoi la guerra, ma non hai pace. Gilda, il tuo letto è un oceano in burrasca, io sono una nave. Oh Gilda, che schiuma tra queste onde, sto per affondare. A che ora vai? A che ora te ne vai? Se non vuoi star qui con me, chiudo la mia poesia nella tua valigia, spengo la mia sigaretta e la butto via. poi mi preparo un caffè e leggo il giornale. Provo a cercare un riposo che non troverò con te, che non smetti mai di sentirti mia. Gilda, il tuo cuore è un cielo stellato sopra il temporale, e io ci voglio volare bucando le nuvole di questo vapore. Gilda, il tuo corpo profuma di muschio, è una terra da arare. Gilda, il tuo cuore è una fossa comune dove voglio morire. A che ora vai? A che ora te ne vai? Chiudo la mia poesia nella tua valigia, strappo le cose che ho detto e le butto via. Poi mi preparo un caffè e leggo il giornale. Provo a cercare un riposo che non troverò. Chiudo la mia poesia nella tua valigia, spengo la mia sigaretta e la butto via. Poi mi preparo un caffè e leggo il giornale. Provo a cercare un riposo che non troverò con te. Chiudo la mia poesia nella tua valigia, che non smetti mai. Spengo la mia sigaretta e la butto via di sentirti mia. Poi mi preparo un caffè e leggo il giornale, che non smetti mai. Provo a cercare un riposo che non troverò con te. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Gilda, stai ferma, questo è il titolo di questo pezzo che ci siamo ascoltati rigorosamente dal vivo con due chitarre e la voce di Frey, ma non c'era solo la voce di Frey, c'era anche la voce di Dario Giovannini, che prestava la sua seconda voce per questo così gioco all'interno della canzone. Innanzitutto, Frey, Gilda, chi è questa Gilda? Chi è Gilda? In realtà non lo potrei dire, però quindi vi posso dire che non ci ascolta nessuno. Non lo so se non ci ascolta nessuno. In realtà Gilda è Gilda in questa canzone è un insieme di donne, un insieme di cose, un tipo di volpe anche, molto difficile da cercare e da stanare. Quindi la canzone penso che sia abbastanza chiara e sia non troppo ermetica. Sì, è chiaro. È una canzone d'amore a 360 gradi, possiamo dire, esatto, così. Esatto, esatto. E quindi è un tipo di donna dalla quale si fugge e alla quale allo stesso tempo si corre dietro. Chiaro. Penso che l'ho riassunta così in pochissime parole. Ho improvvisato il riassunto, ma mi sembra che sia venuto perfetto. Cioè, la serie, quando si viene rifiutati, ci si è proprio addosso. Quando ci si è addosso, magari non interessa più. Sì, è un queste forme di è un tipo di desiderio, o comunque anche forse una visione di quello che può essere l'amore, ovvero un qualcosa dal quale si fugge e al quale allo stesso tempo si va incontro. Quindi c'è questa cosa che forse si ricollega un attimo a quello che è il discorso della ricerca sì, della volpe, però metaforicamente della ricerca in generale, che in qualche modo io la vedo mossa e spinta da due carburanti che sono ben miscelati insieme, che sono la curiosità e la paura. Sono un po' quelle cose che ti fanno muovere alla ricerca di qualcosa e anche alla ricerca di quello che può essere, appunto, in questo caso una donna. Certo. Diceva prima Flavio il gioco delle voci condario, e anche tu giochi, se mi è consentito il termine, in falsetto in modo molto carino in alcuni momenti in questo pezzo, qua stasera. Ah, sì. Come mai questo uso del falsetto, che è una cosa molto difficile ma molto accattivante, molto che prende decisamente sempre quando lo senti il falsetto? Ma queste sono cose che ovviamente non sono pensate prima a tavolino, vengono un po' quando canti una canzone, ma forse non ci ho mai pensato in realtà, quindi è un buon stimolo. Forse per quando vuoi in qualche modo accentuare certi momenti, o forse accentuare all'incontrario, nel senso dargli l'accento togliendogli qualcosa. Ho capito. Usi magari questo modo di cantare, quindi di togliere qualcosa per marcare maggiormente. E poi un'altra cosa positiva è il ritornello che prendi immediatamente, secondo me. Sì. Questa è stata una canzone in effetti abbastanza importante per quello che è stato tutto il lavoro del disco, nel senso della stesura dei brani, perché è stato uno di quei brani che mi ha fatto in qualche modo decidere di andare avanti e comunque e di dire ok, quest'anno faccio un disco. È stato un'apripista, insomma, possiamo dire. Esatto, sì. Benissimo. Allora, questo lavoro di Frey si titola Sulle tracce della volpe, è anche munito oltre di un CD molto bello che stiamo ascoltando, anche di un bel libricino dove si possono anche seguire i testi delle canzoni, perché non sono solamente testi di canzoni ma sono delle vere e proprie poesie, diciamo, fatte in musica, e quindi ad ogni lettura si scoprono sempre cose nuove. E poi la cosa più più curiosa è che c'è già una traccia di volpe, quindi c'è già un'impronta nella prima parte del libricino, un'impronta 4 cm per 3,5 che indica, sembra proprio la zampetta di una... No, sono proprio le misure esatte. Le misure esatte di una volpe. Ecco, sì, benissimo, sì. Di una volpe argentata, di una volpe rossa. La volpe rossa italiana. Di quella. Romagnola. sì, la volpe romagnola. Ricordiamo che Frey e Dario ci vengono a trovare da quel di Cesena. Allora, ascoltiamo ancora qualcosa dal vostro disco, dando spazio alla traccia numero 3, mi sembra di ricordare, quindi Ombre di Luna, e quindi ce l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarla insieme qui dalle frequenze di Blu Radio Veneto, dove assieme a noi c'è Frey con il suo ultimo lavoro Sulle tracce della volpe. Luna Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Neri capelli dal collo alla schiena. Baciami, baciami, baciami ancora. Bianche le mani si muovono nude, cercano, cercano, cercano in ogni dove. No, questa notte sarò da solo. Braccia sospese su maniche viola, navigo, navigo, navigo ancora. L'ultima luce si arrende alla sera, sui tetti lamenti di gatti, ombre di luce. Sarò da solo. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un'altra bella canzone di Frey da Sulle tracce della volpe, questa si intitola Ombre di luna e tra altre cose è una delle canzoni che ha il testo più corto in assoluto di tutto il CD. Esatto. E quello che resta comunque nella testa dell'ascoltatore è sempre quella frase: questa notte sarò da solo. Esatto. Allora, cosa è successo in quella notte in cui tu hai, perché si pensa sia notte poi, no? Esatto, Ombre di luna. Tu hai composto questo guardando la luna come un lupo, anzi come una volpe? No, questa canzone qui in realtà viene da un po' più lontano. Nel senso che il disco sì, è stato scritto appunto l'anno scorso, le canzoni sono state scritte in quel periodo appunto nel bosco. Questa era una delle canzoni che mi sono portato dietro dagli anni prima. Quindi era una cosa che avevo scritto con gli ex nel 2001. No, non no, con no, gli no, ex. No, ancora non conoscevo esattamente. No, è una cosa che avevo scritto, una delle prime canzoni che avevo scritto, ecco. E che appunto è diventata poi, grazie all'arrangiamento di Dario. Parliamo un momento dell'arrangiamento di Dario, questa nota proprio ossessiva che proprio entra dentro nella mente dell'ascoltatore. L'idea, lui fa questa frase che ripete e questa nota che tu ripeti volutamente. Ah, allora, questo brano era era uno di quei brani su cui diciamo l'opera di arrangiamento è stata abbastanza marcata. Perché comunque era un brano molto molto diverso, cioè se ci fosse la possibilità di ascoltare il brano sarebbe anche interessante. Per cui generalmente quando tu inizi a dare un corpo a un disco, un'anima, ti accorgi che stai seguendo un'indole, una direzione artistica vera e propria. Per cui quando ti capita un brano così che diciamo immediatamente ti accorgi, infatti si sentiva che era anche datato in quel, cioè datato non nel senso negativo ma nel puro proprio senso del termine. Quando ti trovi di fronte un brano così dici come faccio a inserirlo all'interno di questo contesto che sto creando, per cui ti incali, dici boh, lo mettiamo, non lo mettiamo, eravamo anche lì per dire boh dai, questo non lo mettiamo perché insomma non c'entra niente con il brano. Poi ti viene un'idea, ti viene in mente un'idea che non c'entra neanche niente con quel pezzo, però lì per lì dici che è bella questa cosa, è un refrain, è un loop, e dici bello bello, come facciamo ad adattare, inizi a costruire, a ricostruire il brano da questo schiavo della nuova idea. Allora ci siamo accorti che il brano così funzionava e cassa in siamo 4. Andati avanti, cassa in 4, insomma l'idea ci è piaciuta, il brano si è piegato facilmente a questa idea e quindi è rientrato alla fine con un colpo di coda nel disco. Questa che è una cosa che è molto affascinante, diciamo, dal mio punto di vista, che comunque mi occupo di dare una veste ottimale ai brani utilizzando dei suoni, degli arrangiamenti. Quando un brano cambia faccia diventa un po' anche tuo, e quindi è la tua vittoria. È il momento in cui tutti dicono no dai, questo brano lo tira fuori, te lo prendi quasi come una sfida, no? Devo trovare il modo di farcelo stare perché è bello, perché lasciarlo fuori. Bene, allora ricordiamo i nostri ascoltatori che stiamo parlando con Frey per l'uscita del suo lavoro che si intitola Sulle tracce della volpe, e assieme a lui in questa serata c'è Dario Giovannini che è un po' l'anima con Frey di questo disco. E naturalmente ricordiamo che questa trasmissione è anche registrata, per cui prossimamente sarà disponibile all'interno dei nostri archivi sonori. Basta andare nella notizia all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it e cliccare su Ascolta l'audio, e quindi in questa serata potrete ascoltare la diretta anche in streaming audio. e poi più avanti potrete cliccare per riascoltare questa intervista, per cui come dico, visto che siamo in diretta, buona la prima. No, certo. Poi naturalmente è possibile anche vedere nei prossimi giorni quelle che sono le foto che stiamo scattando per conoscere i nostri personaggi. Oltre questo che... però non ce l'avevate detto. Allora chiediamo una liberatoria poi magari scritta per non avere problemi. No, vabbè, comunque una cosa assolutamente molto piacevole. Frey, rimetti le mutande, vabbè, da vedere. Sì. Vabbè. Non è vero, sta succedendo, sto avvisando sulla nostra direzione, è tutto sotto controllo. Vabbè, allora, abbiamo ricordato prima che Frey assieme a Dario sono arrivati con i loro strumenti musicali, che si chiamano chitarre in questo caso, e allora direi di ascoltare un altro pezzo live. Cosa succede adesso? Allora, visto che siamo in tema di luna e di, sì, e di notte, facciamo un pezzo che si intitola La notte che cadero i sogni. Ah, bene, ascoltiamolo. Tornerò a camminare per le strade un po' più soli, senza mani nelle mani, senza più le stesse chiavi. Sarà bello, sarà brutto, sarà triste, sarà giusto, se tu non vuoi restare più. La mattina ci alzeremo con il sole tale quale, il tuo gatto sarà un altro e gli dirai le stesse cose. Basterà un temporale a diluire le tue lacrime, sarà più veloce di me, sarò più veloce di te. La notte che caddero i sogni dal cielo non era più vero di te. Ricordo le luci, le strade di Roma, io amavo te, amavi me. E la memoria è un sogno, mentre i sogni restano. Le mie risposte sono giuste, ma le tue domande no. Torneremo un giorno, torneremo ancora qui, saremo già grandi ormai, saremo più grandi ormai. La notte che caddero i sogni dal cielo non era più vero di te. Ricordo le luci, le strade di Roma, io amavo te, amavi me. Ora la sera torno sola a un'altra casa, a un'altra via, con le scarpette belle e i tuoi occhiali blu, e ti vedrò passare nelle strade della mia follia. Saremo già grandi ormai. La notte che caddero i sogni dal cielo non era più vero di te. Ricordo le luci, le strade di Roma, io amavo te, amavi me. Per sempre saremo, domani vediamo, e intanto dormivi già. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un altro pezzo live con Frey e il suo compagno di viaggio Dario Giovannini per questa presentazione di Sulle tracce della volpe, alternato tra brani da disco e brani live con le loro chitarre. Allora, come si intitolava questa canzone, Frey? La notte che cadono i sogni. E quindi? E quindi non era più vero niente. E quindi non era più vero niente. No, no, nel senso, anche questa fa parte, come dicevi tu, avevi fatto una certa trade union tra questa canzone e quella che era la precedente, che parlava sempre di notte, in un certo senso, parlando delle ombre della luna. Sì, però in realtà non è che ci sia un collegamento diretto e preciso nel disco. Fondamentalmente sono due canzoni. Esattamente. Ognuna è separata dall'altra, insomma, è diversa dall'altra. Hanno in comune questa cosa appunto della notte, ma niente di più. Questa era una notte vissuta in maniera diversa, quindi, certo, a questo punto. Ma sì, questa qui è una storia che, cioè, della notte c'è un momento, quello che succede nel ritornello, quello che è il ricordo di una notte, però c'è una storia intera, ecco, in questa canzone. Mi è venuta in mente una cosa, Flavio, adesso te la dico, sì, anche a Frey e a Dario. Noi, Checco Loi e Massimo Valtomare, questa canzone, che è una canzone pop secondo me, questo arrangiamento, queste voci che si rincorrono, mi ricordavano Loi e Altomare, che molti anni fa, all'inizio degli anni 70, scrisse un album molto bello, inciso un album molto bello, si chiamava Portobello, famoso all'epoca. Io e Flavio ce lo ricordiamo, che io e Flavio abbiamo una certa età rispetto a voi. Oddio. Io, soprattutto io, Flavio. Soprattutto io. Alle superiori andavo all'asilo. Perché... Ecco, quindi soprattutto io me lo ricordo. E mi viene in mente proprio quel momento là, questo impasto di voci mi ricordava quella cosa là, quel duo che era che Loi era romano, era figlio del regista Nanni Loi, e Massimo Altomare era veneto, era di Verona, che adesso si è buttato verso il jazz, ha cambiato genere. E tu dicevi, microfono spento, che qualcuno ti ha citato. Però qualcuno me l'ha già detto. Sì, eravamo a Roma, il nostro amico che è venuto a vederci ci ha menzionato appunto questo duo. Sì. Che questa non sera è... bisogna che vada a vedere chi sono. Perché, sì, hanno fatto tre album. Qui il più famoso è Portobello. Quando me l'ha detto lui, ho detto: ma cazzo dice, questo chi è? Chi è? Me lo dite anche voi, quindi. Esattamente. A questo punto. D'altra cosa, dovremmo avere anche il vinile. Sì, qua, il vinile di Portobello. Un paio di vinili di Loi Altomare. Sì, Lago di Vico, un altro si chiama Lago di Vico. Dopo proprio l'altezza del Lago di Vico. Adesso non ricordo, però Lago di Vico. Uh-huh. Sì, non sono mai stati così pubblicizzati, né forse avevano un'etichetta che li ha spinti in particolar modo. Però si sono fatti conoscere soprattutto da gente che, insomma, di musica, con la musica ci naviga. E vabbè, allora dopo questo riferimento a questi artisti di qualche tempo fa, ricordiamo anche quello che è il sito per andare a vedere qualcosa di più, di qualche notizia in più legata sempre a Frey. C'è un sito internet www.freyfreyfrey.com. Quindi tre volte Frey. Sì, come Beetlejuice, praticamente, lo dici tre volte e poi appare. Ah, ok, quindi, benissimo. C'è caso che... non si sa. Si sa mai. E quindi all'interno di questo sito internet, freyfreyfrey.com, mi raccomando, leggiamolo all'italiana, non alla tedesca, che potrebbe dare un senso di libertà un po' diverso. E ci sono le news, la press, la biografia, e insomma tutti quelli che sono i link, soprattutto che permettono... i live, quindi le date, e soprattutto le date live, poi ricorderemo anche quelli che sono i live anche dalle nostre parti, se ce ne sono. Sì, sei sul sito? Sì, sono sul sito in questo momento. Vediamo, quindi sei con la band, poi ancora sei in versione trio e in versione duo, quindi ci sono tre modi per conoscere le musiche di Frey. Ricordiamo, allora, nell'aprile del 2012 siete a Cesena al George Best, e poi vediamo qualche data. Allora, Blu Radio Veneto, questa di stasera l'ho ricordata, poi siete dalle parti di Bologna allo Spazio Elastico prossimamente, quindi il 9 di febbraio. Esatto. E poi comunque ci sono anche molte altre date. Beh, c'è una data molto interessante mercoledì prossimo, il 25 mi sembra, sì, siamo 25 a Roma, gennaio, al Circolo degli Artisti a Roma. Ah, sì, data, certo, importantissima. Quindi una data importantissima, perché succede qualcosa di particolare in quella data. No, allora, sì, è una serata. Sì, lo dico io. Dillo te. Allora, una serata organizzata da Radio Fandango. Da un programma che si chiama non me lo ricordo. È un programma condotto da Valerio Mirabella, che è un bravissimo speaker nonché agitatore radiofonico. Ed è una serata che da tanti anni si svolge al Circolo degli Artisti, che presenta le nuove leve del cantautorato italiano. Fandango è anche era un'etichetta una volta molto importante. Fandango anche, è tante cose. È tante cose, cinema, televisione, musica, sì. Un po' di tutto fa, esattamente. Bene, quindi ricordiamo ancora una volta freyfreyfrey.com, però non solamente del sito di Frey si voleva parlare, visto che stiamo parlando di siti internet, c'è anche, compare nell'organizzazione, nel management, l'Aidoru Associazione. Esatto. Che è un'associazione che comprende molti artisti. Sì, ci comprende molti artisti, si occupa nel mio caso, come nel caso anche degli altri artisti, di quello che riguarda l'organizzazione, il management e il booking. E... Dario, vuoi dire qualcosa? Allora, smascheriamoci, io faccio parte, sono fondatore di Aidoru Associazione. Eccolo. È un'associazione che parte, diciamo, da un gruppo che si chiama Aidoru, che è un gruppo che esiste da 15 anni, che ha navigato nel circuito indipendente, classico, nel teatro, insomma, ha fatto diverse cose. Dall'idea di famiglia, di allargamento della famiglia, è nato il concetto dell'associazione, quindi abbiamo iniziato a accorpare delle persone, delle figure a noi vicine che collaboravano con noi per altri progetti. Frey è stato, diciamo, accolto nel progetto Caretti Musicali, che è un altro progetto dell'associazione di cui magari avremo modo di parlare, e per cui è entrato di diritto nella famiglia, e quindi nel momento in cui ha voluto fare un suo disco solista, noi insomma abbiamo deciso di occuparci anche di quello, e quindi curiamo tutto ciò che concerne dalla comunicazione all'impostazione del disco, sia a livello artistico che a livello manageriale, e come per lui insomma facciamo anche per tutti gli altri artisti e tutti gli altri progetti che sono vicini a noi. Parliamo di Carretti Musicali, vengono presentati come performance, musica, teatro ragazzi e letture in urbano. Allora, come si concretizza la cosa? I Carretti Musicali, di cui Frey è il notevole frontman, sono un progetto piuttosto folle, che nasce da un'idea di città come paesaggio, come scorcio urbano e come potenziale palcoscenico per eventi performativi. I Carretti sono studiati apposta e esclusivamente per poter suonare ovunque, cioè ovunque c'è un luogo ci possono essere i Carretti a suonare, perché comunque sono indipendenti dalla corrente elettrica, nonostante abbiano un impianto di amplificazione. Quindi stiamo parlando proprio di carretti alimentati da batterie. In senso fisico sono, sì, dei carretti che vengono spinti da 5 poveri cristi che sono anche musicisti. Ci sono, sì, 2 ballerine, e praticamente in costume, con questa scenografia che, cioè i carretti sono carretti ma sono anche scenografia, sì, sì, e quindi si costruisce questo palcoscenico in qualsiasi luogo, basta che ci sia un pubblico e un luogo e noi, e si trasforma in un concerto. Diciamo che si sono create delle situazioni davvero interessanti grazie a quest'idea, e basta, insomma, un progetto insomma, per noi molto, progetto... molto, cioè, per noi è molto denso di significati e è molto arricchente, diciamo, da come l'ha descritto, anche un po' busker, quindi adattabile in ogni strada e in ogni forma di contatto, diciamo, umano. Sì, sì, sì, sì. No, la differenza rispetto ai buskers è proprio questa estrema mobilità, cioè questa estrema volontà di mobilità, cioè non è un concetto di fare qualcosa in strada. Per noi si potrebbe fare qualcosa ovunque, e soprattutto ci piace il concetto di muoversi, di raggiungere il pubblico in un luogo, portarcelo dietro, trasportarli in un altro, giocare un pochettino con questo aspetto urbano, questo potenziale palcoscenico della città. E questo lo state facendo in quel di Cesena e non solo? No, i Carretti sono un progetto attivo ormai da 3-4 anni, e insomma ha girato tutta Italia, è stato anche all'estero, insomma è un progetto che funziona bene. Beh, poi ci sono 3 video su YouTube che penso possano... Sì, sì, sì. Sì, sì, poi naturalmente i nostri ascoltatori, ricordiamo che andando al sito aidoruassociazione.com, cliccando nella parte riservata agli artisti, troveranno vari nomi, tra i quali anche questi carretti musicali, e poi i vari link di collegamento con sì, YouTube, contenuti, web, sì, video, ecco. E quindi assolutamente interessante. Già si vedono anche alcuni scorci delle vostre performance assolutamente live. Allora, stiamo parlando con Frey per la presentazione di questo suo lavoro che si intitola Sulle tracce della volpe. Adesso prendiamo un po' di fiato per presentare un altro pezzo tratto da sempre questo CD che si intitola Vento Tropicale e poi... Sì, scusa Frey. Veneto Tropicale. Ah, Veneto Tropicale. Vabbè, fantastico, no? Perché prima fuori dalla diretta c'era un po', come dire, c'eravamo ingrippati su questo Vento Tropicale o Veneto Tropicale, poi naturalmente alla fine è il Veneto Tropicale che risalta. Quindi ce l'ascoltiamo live o da disco? Allora, io mi ascolterei live adesso, che secondo me posso cambiare. Sì, sì, cambiamo. Bassa Marea. Ah, bello quello. Ah, bellissimo. Bellissimo. Che così stupendo. Presentiamo anche un ospite che ha partecipato al disco, sì, che si chiama Francesca Amati, cantante degli American Bee e dei Comaneci, che ha partecipato non solo... Che vi consigliamo caldamente per la trasmissione. Esatto. E che ha partecipato sia appunto prestando la voce... ma scrivendo anche il testo, la parte in inglese del testo di Bassa Marea. Allora ce l'ascoltiamo, Bassa Marea. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Behind the leaves, beneath the sun, I will stay. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questa è Bassa Marea, l'album si intitola Sulle tracce della volpe, a cantarla Frey, in questo caso anche con un ospite femminile. Vogliamo capire dalla voce di Frey come mai è nata questa collaborazione con Francesca. Ma è nata, io e lei non ci conoscevamo, quindi io la conoscevo come artista, e quando ho fatto questo pezzo mi è subito venuta in mente appunto la sua voce. Sarà perché in quel periodo ascoltavo molte voci femminili e lei in particolare mi piaceva molto. Quindi quando ci siamo trovati in studio, che cominciavamo a pensare agli ospiti, è venuta fuori questa idea appunto di, in questo brano, di affiancarci una voce femminile, e quindi l'ho rintracciata, l'ho chiamata e lei è stata disponibilissima e anche contenta di partecipare. Quindi ricordiamo Francesca Amati, che ha collaborato anche nella traduzione del testo. No, l'ha proprio scritto lei. Ah, l'ha proprio scritto io lei. Io ho scritto il pezzo in italiano, era quello, e gli ho detto scrivi quello che vuoi, questo è il testo. Lei è abituata a cantare e scrivere in inglese, e gli ho detto campo libero, scrivi quello che vuoi e cantalo come vuoi. Ed è nato appunto questo. Ed è nato questo pezzo, davvero davvero forte. Allora tu ci hai consigliato di chiamare nei prossimi giorni. Comaneci. Sì. Sì. Dovremmo parlare con il nostro direttore artistico, che salutiamo, che è Alberto Prisco, che stasera è il curatore di tutti i live, è voluto qua stasera, e dovremmo parlare con lui per convocare la band. Cosa dici, Flavio? Benissimo, parleremo immediatamente, quindi garantisce Frey per questa per la serata. Benissimo. Allora, dunque, siamo arrivati diciamo a tre quarti della nostra trasmissione, però abbiamo ancora molte cose da scoprire riguardo Sulle tracce della volpe. Vedo già i protagonisti della serata, quindi Frey assieme a Dario Giovannini, che sono pronti anche con le chitarre per farci ascoltare un altro pezzo che si dice sia anche un pezzo un po' violento, no? È molto violento. È molto violento, perché è molto pericoloso. Noi assolutamente temiamo, volevamo farlo a fine trasmissione per poi contare i danni, però i danni preferiamo contarli in diretta poi più tardi. Allora, come si intitola il pezzo? Spacco l'ufficio. E quindi è dedicato allo stress della vita moderna? È dedicato a tutti quelli che l'avrebbero voluto spaccare tante volte, ma non l'hanno mai fatto. Non l'hanno mai fatto, proprio per rispetto all'ambiente. Sì, per rispetto in generale, quindi è dedicato a loro che in qualche modo indirettamente si possono sfogare ascoltando. Benissimo, allora ci ascoltiamo Spacco l'ufficio, Frey. Il ronzio della corrente alle 10 del mattino scende dal soffitto e rimango ad ascoltare, la mia mano nella tasca, la torturo piano piano, e una bomba nel mio cuore è pronta per scoppiare. Scivola una penna ed un foglio cade a terra, si inceppa nel computer, il telefono si è spento, mi dimentico qualcosa e qualcosa non ritorna, la finestra viene chiusa da una raffica di vento e la follia fiorisce dentro me come un fiore velenoso, gli occhi gonfi sul mio viso, piango e ho il sorriso, e poi io spacco tutto, io spacco tutto, io spacco tutto. E poi mi scappa il sangue e mi invento le bestemmie. E poi mi scappa il sangue e mi invento le bestemmie. Pararararara, parararararara, para. Pararararara, parararararara, para. I colleghi che mi guardano e non muovono un dito, vola il mio computer sulla fotocopiatrice, poi mi pento un secondo e per questo mi arrabbio, prendo calci la sedia e mi faccio male, e la disperazione sembra avere la meglio, il delirio nella stanza domina su tutto, se penso che domani sarò senza lavoro, mi prende la voglia di mordere il muro, e la follia fiorisce dentro me come un fiore velenoso, gli occhi gonfi sul mio viso mentre piango, ho il sorriso e poi io spacco tutto, io spacco tutto, oggi spacco tutto. E poi mi scappa il sangue e mi invento le bestemmie. E poi mi scappa il sangue e mi invento le bestemmie. Radio Sera. Allora, spacco l'ufficio, questo è il titolo di questo pezzo che ci siamo ascoltati, tratto da Sulle tracce della volpe. A cantarla e suonarla c'era Frey qui in diretta assieme a Dario Giovannini. Questa canzone, che è stata fatta solamente per voce e chitarra, in realtà da disco ha una costruzione un po' più corposa, e tanto per metterlo un po' sul ridere, la parte di Frey non ha solamente la voce ma parla anche di vetri. Esatto, poi questa è una cosa che ci tengo molto a dirlo, sì. Perché sono quegli sfizi che ti togli quando fai un disco. Che lo fai, non è che lo fai tutti i giorni. Certo, per cui c'è scritto voce e vetri. Sì, si poteva semplicemente prendere un campione di vetri rotti, no. E invece no, ci ho messo un pomeriggio. Sì. Sono andato prima all'era a chiedere se mi facevano spaccare un televisore. Non so se qua c'è l'era. Il tipo si era aggasato di brutto, perché ovviamente era lì che se ne si stesse divertendo tanto. E gli ho detto che era per un disco, quindi si è entusiasmato, siamo andati dentro un container, insomma ci hanno beccato, non ce l'hanno fatto fare. Sono tornato a casa e lì ho costruito con un microfono di quelli di uno Zoom e della casa vecchia di fianco alla casina nel bosco che ho io, in affitto. Ho spaccato, diciamo, 200 vetri piccolissimi, minuscoli, poi li ho assemblati in GarageBand, è diventato un putiferio di vetri rotti. E quindi è stata proprio una preparazione. Poi l'ho portato in studio e ho costretto il produttore artistico a metterlo nel banco. Ed è diventata una parte della canzone. Una parte importante che adesso non l'abbiamo ascoltata, però è un ulteriore invito. Per me, come musicista, è stata fondamentale. Bene, assolutamente, anche perché un po' fa parte di quella scarica di adrenalina, no? Esatto. Diciamo che porta proprio a mandare, ecco, tutti e tutto. Cioè, nel mio piccolo mi sono sentito un compositore anch'io. Sì, certo. Di vetri rotti, però. Poi mettendoci con l'ATAC a ricomporli. No, dopo gliela siete lì. Ecco, una cosa dobbiamo sottolineare. Sì. Timore di tutti i DJ, loro si sono fermati volutamente, improvvisamente, non so se hai notato. Sì, l'ho notato, ero proprio davanti a loro che l'aspettavo comunque da un momento. Ma è bello che sia così, perché la canzone doveva essere così dal vivo, è divertente e si stoppa nel momento che nessuno se l'aspetta praticamente, è così. E comunque, esatto. E comunque dimostrate di conoscere molto bene quello che è l'ambiente dell'ufficio. Perché? No, da come risulta da quelli che sono il testo della canzone, a partire anche dal ronzio della corrente, che molte volte è quella che arriva da sotto dal computer. Che non te ne accorgi, ma è lì che lavora. È lì che sta lavorando. I tuoi nervi. Esatto. Ore e ore che ti lavora. Non tarlo. È vero. Perché al mattino alle 8, quando vai in ufficio, non te ne accorgi subito di questo rumore, ma poi. Poi basta che cade una penna e la fine. È la fine. E quindi. Ed è stato tutto ben descritto all'interno di questo. Spacco l'ufficio. Maurizio. Sì, bello, interessante. A me interessava anche riproporre il discorso che live che avete fatto in questo momento. Queste voci, un po' anni 50, posso dire questo. Cosa dici, Dario? Io l'ho sentito così, può darsi che possa sbagliare, però li ho sentito un po' anni 50, volutamente anni 50, così divertenti. Spensierato, nonostante l'argomento. Sì, può essere. Così. Alla lollipop. Esattamente, proprio quel periodo là, tra il 50 e il 60, dai, possiamo dire così. E quindi sì, c'è chi si ricorda le lollipop solo del periodo più recente, ma insomma preferiamo ricordare ancora il periodo degli anni 50. La scaletta prosegue con un altro brano da disco, quindi cosa abbiamo? Quel famoso vento tropicale da far ascoltare, esatto. Ecco, vogliamo chiamarlo Veneto sì. Tropicale. E allora c'è... ci siamo sbagliati sul disco, infatti è un refuso. Sì, è vero, dopo magari cambieremo. Correggiamo. Ci correggerete la copia che ci lasciate qui con dovuta minuziosità d'arte grafica, ci sistemerete la E nel vento. Bene, allora ce l'ascoltiamo, è la traccia numero 7, poi torniamo qui in diretta a commentarla insieme. Bene. Blu Radio Sera. Che in terrazza tira un vento tropicale, e se ti concentri bene, chiudi gli occhi piano piano, dicono che si vede il mare. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Vento tropicale. Questa è un'altra canzone di Frey dal Sulle tracce della volpe, e appunto questo pezzo così incalzante, continuo, che parla appunto di cosa? Di questo vento tropicale. Sì, dopo qualcosa... che hai spaccato un ufficio, sì. Cioè, in qualche modo una rinascita da quello che era, da come era partita la mattina, quindi il pomeriggio, sì. Vai al mare. Certo, certo. E anche se il mare, che ne so, della Riviera Romagnola, in qualche modo ti sembra Malibu, o addirittura può anche non essere proprio il mare, può essere semplicemente la terrazza di casa tua, sì, dove che guardi te ne vai verso, sopra, sì. E se ci guardi bene, anche sì. Se non si vede, però se ci guardi bene e stai attento, rischi di vedere il mare, anche a Milano. Vede quel puntino azzurro e lo immagini, se non lo vedi lo, esatto, immagini, e quello ti crea un senso di libertà da tutti quelli che sono i pensieri che ti hanno armato nel corso della giornata. Sì, forse è proprio una canzone dedicata al terrazzo. Mm. Perché infatti è nata in un terrazzo. Sì. Ed è proprio dedicata quando c'è, comunque il terrazzo è una cosa importante. Certo. Anche se sei in una grande città. Eh sì. Soprattutto se sei in una grande città. Cioè, non solo se sei in campagna che vedi un panorama bellissimo. Sì, sì, sì. Ma anche se sei in una città che di fronte hai, che ne so, la tangenziale o i condomini. Sì. Il terrazzo è il terrazzo. Comunque, certo, perlomeno tu sei arrivato, non sei in coda in tangenziale. Sì, in quel anche caso quello. Sì. Ma ti dà anche quella magia di, sì, sentire quel leggero vento che magari è lo scarico dell'autobus. Però a te ti sembra un vento tropicale. L'importante è sentirlo e non odorarlo. È un terrazzo rock però, in ogni caso. Perché dal vivo le fatte con il trio, è un trio rock assolutamente. Il vento tropicale è rock, assolutamente rock. Deve essere rock. Quindi. Adesso si era parlato di duo, di trio, si era parlato anche di band. In particolare perché? Cosa succede a Macerata prossimamente? Allora, Macerata il 29 di gennaio, suoniamo dal vivo al Teatro Filarmonica, siamo stati selezionati per Musicultura. Quindi partecipiamo alle semifinali di Musicultura e lì suoniamo nella formazione allargata, quindi con il batterista. Citiamolo il nome del batterista. Giuliano Sella, come no, Giuliano Sella di Rimini. Certo. Lorenzo Perinelli al basso e Marcello Gian Dudetti al trombone, che è un altro personaggio per il quale va spesa qualche parola in più, perché è stato uno degli ospiti del disco, che è quello che ha registrato, sì, tutti i tromboni. Tra altre cose è anche molto, diciamo, originale all'interno del disco sentire frequentemente anche il trombone, che non si sente spesso, diciamo, esatto, della, esatto, musica pop rock in genere, perché viene sempre abbinato alla classica o qualcosa di jazz. In realtà, sì, è presente qui anche in una maniera molto molto forte il trombone. Sì, poi c'è anche il modo di suonarlo di Giandu e quello che, diciamo, il mondo musicale che lui si è costruito in questi anni. Dobbiamo sottolineare una cosa, che arrivare a Macerata, Musicultura, è una manifestazione molto importante, molto significativa. È una cosa importante, sì, è un bel risultato, diciamo, certo, di questi primi mesi di uscita del disco, ecco. Bene, una cosa, speriamo. Sono molto contento. Che vada avanti ancora, cosa speriamo dici? Speriamo di sì. Di arrivare fino alle finali. Ma sì, diciamo. Non si sa mai, Non si sa mai. Allora, per non parlare sempre solo della musica di Frey, ci sono degli artisti nella vostra vita, e quindi la domanda la faccio anche a Dario, che hanno contribuito in una maniera determinante a quella che è la vostra, diciamo, il vostro impegno musicale. Ad esempio, Frey, io leggevo sempre riguardo la tua biografia che tu parlavi di una gita in casa di De Gregori, ma non l'hai trovato. Allora, com'è stata la continuazione della storia? Sei riuscito poi ad incontrarlo? Era un tuo idolo? No, non ci sono riuscito, ma semplicemente era il periodo in cui abitavo a Perugia, avevo appena iniziato l'università, avevo 19 anni, avevo registrato in un Maggianastri, in una cassetta, una decina di canzoni, e ovviamente non avevo la più pallida idea di come muovermi, ero comunque, no, perso completamente in quello che era la vita di uno di 19 anni, quindi non hai, perlomeno io non avevo a quell'età un'idea di chi, dove potermi rivolgere. Capita che un giorno uno mi dice: oh, sai che lì c'è abita De Gregori? Io ho fatto uno più uno, Via. Ho preso la cassetta, sono andato lì, ho bussato, c'era il custode, mi ha detto no guarda, lui non viene mai. Ecco. Perfetto. Guarda, quindi... Però vedi... lì si è chiusa una parentesi che si è riaperta sì. 10 anni dopo praticamente, quando ho conosciuto, un po' meno di 10 anni dopo, quando ho conosciuto gli Idol, è nato il progetto dei Carretti Musicali e ho iniziato a suonare. Bene, è una cosa positiva. Un musicista famoso, Samuele Bersani, ha fatto una cosa simile alla tua, però stavolta c'era Lucio Dalla, era da lontano, ha buttato la cassetta e poi lui se n'è andato. Poi un po' di tempo dopo Lucio Dalla ha chiamato Samuele Bersani, è diventato Samuele Bersani. E tu sei stato sfortunato, non c'era nessuno nella cassa per quello. Vabbè, sono cose che succedono. Comunque, oltre a De Gregori, qualche personaggio non solamente italiano, ma anche, se vogliamo, di caratura internazionale, che ti ha, diciamo, dato una mano per inserirti nel mondo musicale, che nome potresti fare? Ma se facessi solo un nome, a parte che non saprei quale fare, però sarebbe anche sbagliato, cioè non sarebbe neanche vero, perché c'è una serie di, c'è un mondo di artisti. Più che altro di, per quanto mi riguarda, di cantautori italiani che mi ha cresciuto fino a una certa età. Poi da alcuni sono completamente scappato, anche se comunque li avevo amati, li avevo ascoltati. Ad altri mi ci sono avvicinato un po' di più. Dopodiché sono andato all'estero in tutti i sensi, sia a ascoltare musica, cioè sia a vivere che a ascoltare musica. Dove all'estero? Tre. Ma in un, ho girato, ho vissuto un po' in Inghilterra, in Irlanda, in Spagna e basta. Ah, beh, insomma, hai fatto un bel giro. So. E sono tornato e ho continuato comunque a ascoltare, soprattutto a cercare musica straniera. In questo periodo in cui sto presentando il disco e parlando appunto di me, come in questo caso, cito sempre due artiste che mi hanno accompagnato, anche se non diciamo influenzato, comunque. Mi hanno accompagnato nel periodo in cui scrivevo le canzoni, perché poi finivo di lavorare e mi andavo a letto e mettevo sulla musica, non è che... e mi ascoltavo molto un disco di Emiliana Torrini, brava, bravissima, che si intitola Me and Harmony, sì. E un disco di Feist, ah, un altro gruppo molto interessante inglese. Quindi andavo sempre, anche sì, se andavo a letto da solo, andavo sempre a letto in compagnia di due donne, con questi, certo, con questi artisti. Non indifferenti. Esatto. Quindi abbiamo citato due artisti assolutamente originali, forse anche la prima volta che ne sentiamo parlare dagli artisti. Come avrei capito, Frey, è proprio una domanda che facciamo molto spesso per capire qualcosa, certo, di più anche noi in tema musicale. Ci rivolgiamo anche a Dario con la stessa domanda per capire personaggi di riferimento importanti nel tuo panorama musicale. Allora, io ho una formazione molto strana, molto strana, nel senso che a tre anni e mezzo, diciamo, quattro anni, ho iniziato a suonare il piano. I miei genitori erano entrambi musicisti, mio padre è un... direttore di coro, pianista, mia madre è una soprano, cantante lirico, e loro mi hanno, insomma, avevo il piano in casa, mi sono messo anche a suonarlo da solo, loro mi hanno insegnato, e per cui ho avuto una formazione completamente classica fino a che non sono uscito dal conservatorio. Quindi sto parlando fino a 23 anni, insomma, mi sono diplomato in pianoforte, in direzione di coro, eccetera eccetera. Nel frattempo, in maniera completamente parallela, ho scoperto il punk. Per cui ti lascio immaginare. Io si sposa benissimo. Dai 13 anni sì, ai 20, 23, 24 anni, ho affiancato queste due vite parallele. Suonavo in un gruppo punk e ho girato, insomma, tutta Italia, circuito dei centri sociali, ho iniziato a farmi una formazione in quell'ambito lì. Nel frattempo andavo anche in conservatorio, quindi giacca e cravatta, sono entrato al piano, facevo i concerti, ho fatto anche, insomma, diplomato, ho fatto il concertista per un po' di tempo, sempre abbinando le due cose. I genitori lo sapevano? No, voglio dire, certo, perché... che lo sapevano, sì, cioè, sì. Andavo al liceo, arrivavo a casa alle 4 di notte e poi dovevo andare la mattina a scuola, quindi mi è capitato anche questo. Nel frattempo, all'età più o meno di 20 anni, ho scoperto il teatro. Sono appassionato tantissimo di teatro e ho lavorato per 10 anni con una compagnia di teatro, producendo spettacoli e girando in tour per l'Europa. E, diciamo che il teatro è quello che in realtà mi ha aperto tutto. Per esempio, è il teatro che mi ha fatto scoprire che potevo avvicinare i due mondi, potevo fare qualcosa che fosse veramente a metà strada fra musica classica e punk. E questo è quello che mi è successo, l'ho fatto con il mio gruppo di allora, e piano piano ci siamo avvicinati, siamo diventati sempre più colti, tra virgolette, nel senso che abbiamo avvicinato il punk a quella cosa lì. E poi, insomma, dopo il teatro è successo tutto il resto, siamo entrati in un circuito, abbiamo iniziato a collaborare con altre persone, fare altri dischi, mi sono avvicinato anche a Frey, insomma, con i Caretti Musicali, abbiamo fatto dei progetti nostri di teatro. E quindi, insomma, è un'evoluzione un po' particolare. Non, certo. Non ti potrei far di noi, ti potrei dire che ho ascoltato tantissimo Bach e i NoFX, insomma, certo, quindi... cose estremamente diverse, ma le ho amate veramente. È quella la cosa, sì, che poi c'è molto, anche questa, molto curiosa. Insomma, questa stranezza tra classico e punk, tantissimo si... Stockhausen, ma sì, anche, sì, sì, anche i Cardigans, certo, sì. certo. No, ma voglio dire, perché c'è chi sa di musica classica sa di suonare e si sa degli anni passati al conservatorio. Ma solitamente la musica punk viene descritta anche molte volte come non musica, ovvero chi si in possesso di uno strumento per tirare fuori qualche nota punk non ha una base di conservatorio, anzi forse molto meno che non imbracciare la chitarra. Ma sai, lì secondo me, cioè, è una questione di, cioè, di fossilizzazione in un meccanismo mentale. Diciamo che un pochettino tutti i generi ti portano ad identificarti talmente tanto in un processo mentale per cui ti dimentichi che esistono anche altre cose. Per esempio, i musicisti classici, per me succede molto questa cosa. Cioè, il punk è vero, sono due accordi, magari anche suonati male, e per un musicista classico sono quasi inconcepibili. In realtà, in quel suonato male c'è un universo. Se tu non riesci a cogliere questa cosa, vuol dire che... probabilmente sei troppo chiuso nel tuo mondo. Certo, non e sei questa punk. Cosa avviene anche ai musicisti punk. Dicono, certo. Ma di là, cioè, tutte quelle note, tutta quella roba, la cravatta, no? Che senso ha la cravatta? Ha senso anche quello, perché ci sono dei musicisti che, suonando in una maniera estremamente sopraffina, riescono a trasmetterti una questione filosofica dell'evoluzione della scienza. Ma Phil Ramone può essere il Bach della musica punk, sì. Possiamo dire assolutamente. Quindi. Bene, allora mi è piaciuta molto questa vicinanza tra classica e punk in questo caso. E allora continuiamo a parlare del lavoro di Frey sulle tracce della Volpe, presentando anche un altro pezzo live, in questo caso un'altra canzone, appunto, sulle tracce della Volpe, che si intitola Dalle tue mani. Dammi le tue mani, scusa, ecco qua. Allora, Dammi le tue mani, ce l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarla. Mentre passo dopo passo, giro intorno su me stesso, sulle luci della sera, è finito un altro giorno e tu non ci sei. Strappo i mesi al calendario, cambio i fiori alla finestra e aspettando di partire faccio il conto alla rovescia e tu non ci sei. Dammi le tue mani, dammi le tue mani, che voglio vedere le cose che hai. La paura e il ricordo finiranno domani e poi un altro giorno davanti e una scommessa per me, per me. Come pillole di pioggia i minuti vanno avanti, come perle sulla sabbia i tuoi occhi in mezzo a tanti, mentre te ne vai. Cosa ho fatto non ricordo e cosa ho detto non importa, e fedele al mio ritardo esco fuori dalla porta per i fatti miei. Dammi le tue mani, dammi le tue mani, che voglio vedere le cose che hai. La paura e il ricordo finiranno domani e poi un altro giorno davanti e una scommessa per me, per me. E la mia anima vaneggia in una polvere di seta, il mio spirito galleggia sopra un'onda sconosciuta per i fatti suoi. Dammi le tue mani, dammi le tue mani, che voglio vedere le cose che hai. La paura e il ricordo finiranno domani e poi un altro giorno davanti è una scommessa per me, per me. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un'altra canzone di Frey, Dammi le tue mani, sempre tratto dal suo ultimo lavoro Sulle tracce della volpe. Non abbiamo ancora ricordato come entrare in possesso di questo CD, ma ce lo facciamo spiegare da Frey. Allora, il metodo più semplice e più rapido è iTunes o qualsiasi altra piattaforma digitale. Un altro modo, per chi vuole avere il disco fisico. Può essere la spedizione a casa. E sul sito trovate le indicazioni. Benissimo, quindi freyfreyfrey.com. Oppure ai nostri concerti. E un'altra piattaforma digitale diversa è Bandcamp, per chi la conosce. Certo. Può anche essere acquistato nei negozi. Poi può essere anche acquistato dei negozi, che ormai ci scordiamo di dirlo perché ce ne sono rimasti molto pochi. Sì. Però è distribuzione Audioglobe. Basta ordinarlo. Basta ordinarlo in ogni negozio e arriva. Bene, decisamente. Ritorno un momento al singolo. Ho parlato di singolo perché secondo me questo pezzo che voi avete seguito benissimo poteva essere sicuramente un singolo potenziale, perché prende immediatamente, fin dal primo accordo. Io l'ho sentito così. E anche Flavio è d'accordo sicuramente con me. Certo, certo. Tra le altre cose, non abbiamo parlato di tutte quelle che sono state le recensioni assolutamente positive del disco Sulle tracce della volpe, e ne hanno voluto parlare assolutamente tutti quelli che sono le riviste specializzate e i siti riservati alla musica, che ne hanno dato un valore molto importante a questo disco. E quindi qual è stata l'emozione immediata? Te l'aspettavi, Frey, di questo successo, soprattutto da parte della critica in questo caso? No, cioè, nel senso, non mi aspettavo tante recensioni, non mi aspettavo così tante risposte, anche se comunque ero abbastanza convinto, sicuro del disco che avevamo fatto. Però ovviamente rimane sempre una convinzione tua. Certo, certo. Poi, ma tantissime, come giustamente ha ribadito Flavio, di tutti giornali, non soltanto quelli musicali famosi, anche in molti siti, hanno parlato benissimo del tuo album, e tutti positivamente. Non c'è stata nessuna critica negativa, quindi è un grande successo per un album di esordio, anche se tu sei paludato nel mondo della musica, non hai fatto solo questo. Certo. Sì, tanto per citarne una a caso, quella di Francesca Molinari, che scrive su Gemme, dice 11 tracce, sono brani estemporanei, incisivi, canzoni che parlano delle piccole e grandi emozioni che si celano dietro al nostro quotidiano, così tanto per dare una rapida e prima descrizione a quello che è il contenuto di questo album di Frey, che vale la pena proprio di far proprio e di ascoltarselo, diciamo, in santa pace, senza avere gli speaker che intervengono ad ogni canzone. Comunque ricordo che per chi volesse ascoltare ancora la trasmissione, questa sarà disponibile anche nei nostri archivi sonori, quindi un'altra maniera per ascoltare Frey, oltre a quella di entrare in possesso del disco, che appunto, ricordo, si intitola Sulle tracce della volpe ed è immediatamente visibile anche tramite una semplice ricerca su Google. Salutiamo anche la Rossella, che sicuramente avrà sentito tutto il programma stasera. Ciao, quindi Rossella è una delle nostre ascoltatrici in, quindi va sempre, ciao, Rossella, va sempre ascoltata, va sempre salutata. È doveroso, è doveroso. Benissimo, allora un altro pezzo da disco e poi torneremo per i saluti. E quindi lanciamo anche un concorso in questo caso, visto che stiamo parlando di un pezzo che si intitola Reg. R.E.G. Benissimo. E quindi in questo caso. Cosa diciamo, vuol dire? Lo diciamo dopo, cosa vuol dire? Vabbè. E allora, il pubblico può chiamare in radio per. Ma potrebbe anche chiamare, sì, potrebbe anche, anzi, perché tipo, no? Se gli diamo il numero, chiamano e dicono cosa vuol dire. Potrebbero mandare anche un messaggino, vediamo solo se funziona il nostro sistema SMS, direi proprio di sì. Allora, per questo pezzo che si intitola Reg, se qualcuno ci sta ascoltando e vuole dare la sua interpretazione al un aiutino alla sigla, sì. Diamo un aiuto. Sì. Allora, R.E è congiunzione. Sì. Quindi R E G. Benissimo. E allora ascoltando il testo uno può lanciamo il concorso per bene, allora. Diciamo che chi indovina, sì. E non ci sono ovviamente trappole perché nel disco c'è scritto. Sì. Quindi chi indovina e chiama dice la soluzione, sì, avrà un disco in omaggio spedito a casa personalmente. Quanta, da noi il primo che indovina. Allora, esatto. 346 23 20 033, questa specie di mini concorso per capire un po' quello che è il significato di questo REG, ovvero reg. E allora intanto ce l'ascoltiamo, vediamo se arriva... il testo dà qualche suggerimento, vediamo se ci sono coraggiosi in ascolto. Blu Radio Sera. Gradi a nord, vado con il viso al cielo. Per un attimo muovo l'aria con la mano. Da quassù io posso vedere la città e mi siedo a riposare. Starò così. Primavera che cade giù e vento forte con raffiche a sud-est. Primavera che cade giù e vento forte con raffiche a sud-est. Solo nuvole che si muovono lontano, fino a credere ogni limite vicino. Vado via, piego l'aria con la mano, su di me le ombre lunghe del mattino, fino a che starò così. Primavera che cade giù e vento forte con raffiche a sud-est. Primavera che cade giù e vento forte con raffiche a sud-est. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E sulle tracce della Volpe c'era anche questa canzone. REG REG è un acronimo, significa, ma lo scopriremo dal nostro Frey. Forse abbiamo ricordato un po' in velocità l'SMS, forse gli ascoltatori non sono stati attenti. Ricordiamo ancora 346 23 20 033, in queste fasi finali della trasmissione, per vedere se avete il coraggio di dare una soluzione al quiz di cosa significa reg. Vediamo se c'è ancora qualche sveglio in ascolto, soprattutto che abbia il telefonino acceso vicino a lui, ma di solito in queste serate ogni tanto il telefonino va spento e come non condividere in attenzione situazioni. Mi è arrivato un messaggio a me, sì, il mio telefono, sì, personale, ecco, vedi? Questo è un mio amico che scrive romani e genovesi. Bella. Allora, non è male. Romani, emiliani e genovesi. Non è, no, perché è congiunzione. È congiunzione. E quindi, romani e genovesi. Non è male, non è male come interpretazione, ma non è così. Non è così, quindi è così. Diamo ancora qualche possibilità prima di svelarlo, o vogliamo svelarla? Ma dai, diamo chi sono. Sono le 23, sì, adesso. Tra poco si saluta. Tra poco si saluta, allora sì. Mi sa che... Sì, lo scopriranno dal vivo, quando, sì, perché dal vivo rilanciamo il concorso, quindi non possiamo dire per radio. No, certo, certo. Se certo. Uno viene dal vivo e dice, ah, io la so, in realtà. Esatto, non è così. Quindi vi lasciamo nel dubbio. Diciamo che in un certo senso c'entrano anche con i carretti musicali, no? Da. Li abbiamo visti un po' andare. C'è qualcosa in comune con l'andare, con chi va. Con chi va. Con chi va. E con chi gira? Con chi gira, con chi gira, chi rigira. Cioè, comunque, diciamo reg, anche nel libricino di sulle tracce della Volpe, che accompagna appunto il CD, c'è la soluzione al quiz, quindi un motivo in più per comprare il disco. Bravo, benissimo. Allora, è stato un vero piacere ospitare Frey, ospitare anche Dario in questa serata, per conoscere più da vicino il lavoro che si intitola Sulle tracce della Volpe. E quindi ringraziamo ancora Frey di essere stato con noi, ringraziamo anche Dario per il suo prezioso accompagnamento. E noi ringraziamo voi per averci ospitato. Grazie a voi della fatica per arrivare qua, ma è stata una fatica premiata da un ottimo concerto, secondo me. Benissimo, anzi adesso dovete ritornare a Cesena. Sì, speriamo ci sia meno nebbia. Sì, speriamo di sì. Gli impegni artistici di domani ci sono, quindi mi raccomando, tornate, correte piano e fate presto, come dicevano. Vabbè. Una volta. E comunque, prima di lasciarci, un altro pezzo, Frey. Allora, vi lasciamo con la canzone che chiude il disco. Sì. Che si intitola Telefono Casa. E chiude il disco in tutti i sensi, perché... è la canzone anche che insieme alle tracce della Volpe, una che apre, una che chiude, sono un po' quelle che fanno da inizio e fine del periodo, del percorso, insomma, del percorso, esatto, di quel tipo di lavoro, quando ti isoli completamente da solo in una casa nel bosco, e in un'altra casa rimane qualcuno che non ti vede più e quindi ti telefona di continuo. Bene, allora noi salutiamo, ringraziamo ancora Frey, ringraziamo ancora Dario Giovannini di essere stati con noi in questa serata. E, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso ciao, buona serata a tutti, buonanotte, vi lasciamo ancora con l'ascolto di un'altra canzone di Frey. Buon ritorno, ragazzi. Grazie. Le tue rughe sul viso si piegano a un sorriso che non è mai lo stesso. Poi ti preoccupi spesso di quello che io faccio e mi lasci andare via. La tua pazienza è la mia, oggi dico una bugia, non telefonare più. Ora non so che cosa darei per averti qui con me? Una casina nel bosco ho preso in affitto fatto e non tornerò più indietro. Riguardo alla vita mia, puoi venire a casa mia e te la racconterò. Poi ti preparerò un caffè, tutto il giorno io e te non ci annoieremo mai. Ora non so che cosa darei per averti qui con me. Blu Radio Sera.